Oh, my crying. sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Some puppet on a string. Oh. you laying in the love I have to bring. I'd do anything to be your so long. You and me been finding each other for so long, and the feeling that I feel for you is more than strong, girl. Take it from me, if you give a little more than you're asking for, your love will turn the key. Crazy like a fool. What about Daddy Cool? Thank you. creatures down below. And they grew up in a way that we'd never seen before. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. I want to live the sporty life. Good times.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Get down on it.

little drama cosa. Anumuna, siseau, ya drama cosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama kosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama kosa. Nika so. Mama ko, mama sama ko, mama kosa. Mama ko, mama sama ko, mama kosa. Mama ko, mama sama ko, mama kosa. Yonse, bala yonse, makosa. Bana roka rona ye, bewa, jema rona makosa. Bana! Afre wabane ni nasala nga makosa. Oh, Mejor música para usted. Bye.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. been paying every day. Yeah. All night. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yeah. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Starts to rise. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Let's go.